Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. '19:15, gentili ascoltatori, una buona serata e ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi vengono anche da Guido Scotti, Valentina Magri in redazione e in regia questa sera c'è Pietro Lacorte. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, ormai le conoscete: la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666. Poi siamo su Facebook, il profilo è nessunluogolontano-radio24 e infine potete cinguettare a nessunluogo24. Lunedì 4 marzo si vota in Kenya. L'appuntamento elettorale è importantissimo. Primo, perché nel 2007 vi sono state feroci violenze che hanno portato a 1200 morti e centinaia di migliaia di sfollati. Secondo, perché il Kenya è un paese nevralgico e cruciale per gli equilibri dell'intera Africa orientale. Pensate alla vicina Somalia, dove il Kenya è intervenuto militarmente. Pensate all'industria del turismo sulla costa. Pensate al vicino Sudan e Sud Sudan, ricco di petrolio. E ancora, Nairobi è un po' il centro della regione, finanziario, economico e politico. Ecco perché questa sera, Nessun luogo, vi porto a Nairobi, partendo proprio da quei nefasti scontri del 2007, dopo la proclamazione del presidente Mwai Kibaki. Le tensioni tribali esplosero con violenza e i segni di quelle violenze che videro kenioti uccidere i propri vicini di casa sono ancora presenti. The commission therefore declares Honorable Mwai Kibaki as the president of Kenya. 300 people have been killed in days of clashes in Kenya. Some 70,000 have fled their homes amid violence breaking down. In Nairobi's slums, neighbor fighting neighbor. E così nel 2007, nell'Islam di Nairobi, nelle baraccopoli, i vicini di casa a un certo punto si ritrovarono nemici. La situazione di oggi è differente, gli appelli alla calma, le iniziative di pace sono state molteplici, le forze di polizia massicciamente schierate, ma un'altra grande differenza è che questa volta i kenioti hanno assistito al primo storico dibattito televisivo degli 8 candidati alla presidenza. Right across the country, over 14 million voters will decide who will emerge the first president of the Second Republic. Welcome to the Kenya Presidential Debate 2013. I candidati alle elezioni presidenziali in Kenya sono 8. Peter Kenneth della Eagle Alliance, Uhuru Kenyatta della Jubilee Coalition, Mohamed Dida del partito ARC, Alliance for Real Change, Raila Odinga dell'Accord, Coalition for Reforms and Democracy, Martha Karua della NARC, National Rainbow Coalition, Paul Muite del partito Safina, Musalia Mudavadi della coalizione Amani e James Ole Kiyiapi del partito RBK, Restore and Build Kenya. Alle elezioni voteranno 14,9 milioni di persone. Per il timore che si ripetano gli scontri post-elettorali del 2007, 90.000 poliziotti sono stati messi in campo per garantire la sicurezza durante il voto. La zona vicina al fiume Tana, teatro di numerose violenze negli ultimi mesi, è stata militarizzata. Tra gli 8 candidati alla presidenza del Kenya, l'unica donna in corsa è Karua, che in passato lasciò la carica di ministro della giustizia per le difficoltà incontrate in quanto donna. Due sono di fede musulmana, Dida e Muite. Due sono professori, Kiyiapi universitario e Dida che insegna alle scuole superiori. Due hanno avuto guai con la giustizia, Kenyatta è accusato di crimini contro l'umanità, ma il processo è stato rinviato. Mudavadi è indagato per frode. Solo Kiyiapi appartiene ai Masai, minoranza etnica di allevatori e agricoltori storicamente priva di peso sociale in Kenya. Hanno tutti esperienze politiche alle spalle, tranne Dida. I manifesti dei due principali candidati, Odinga e Kenyatta, sono molto simili. Entrambi hanno promesso scuola e sanità per tutti. L'età media dei candidati è di 55 anni. Questo il sintetico ritratto degli 8 candidati in corsa, ma come avete sentito, a giocarsela fondamentalmente saranno Odinga, attuale primo ministro, e il suo vice Kenyatta. E Kenyatta, fra l'altro, deve fronteggiare un processo alla Corte Penale Internazionale, i cui battenti si dovrebbero aprire ai primi di aprile. E alla sbarra ci sarà anche William Ruto, che si candida alla vicepresidenza proprio assieme a Kenyatta. Le accuse sono, guardate un po', proprio di aver fomentato quelle violenze dopo il voto del 2007. Adesso vi propongo una breve chiacchierata che ho fatto con John Gitongo, direttore dell'ONG Inuka Kenya Trust. È un ex giornalista e da sempre impegnato contro la corruzione nel suo paese. Vorrei iniziare con un momento storico per il Kenya, cioè il primo dibattito televisivo presidenziale. Quali sono i suoi sentimenti e le sue valutazioni dopo aver visto questo dibattito? I think the debate themselves, did not tell us anything new. I think what was special was... Penso che il dibattito in sé non sia nulla di nuovo. Ciò che lo rende speciale è che non ci sono mai stati dibattiti in precedenza. I candidati non si erano mai sottoposti a domande delle persone comuni. Questo non ha precedenti nello sviluppo della nostra democrazia. Pensa che alcuni dei candidati hanno convinto la popolazione? C'è stato, cioè, un vincitore in questo dibattito TV, secondo lei? No, penso che la TV non influenzerà il voto dei kenyoti. Sono adulti. Due dei candidati, Ruto e Kenyatta, sono sotto processo per crimini verso l'umanità e per le violenze avvenute nel 2007, proprio dopo le scorse elezioni. Ma le ultime notizie ci dicono che questo processo potrebbe venire rimandato. Pensa che questo ritardo possa avere un impatto politico sulle decisioni dei kenyoti? Non sono spaventato per il rinvio, perché penso che sia la cosa migliore per garantire la pace. D'altro canto è anche vero che tutto questo potrà far crescere i sostenitori di Kenyatta, perché il rinvio lo fa apparire vittorioso e sembra avvalorare la tesi che non ci siano prove inequivocabili contro di lui. Tornando alle violenze che sono scoppiate nel 2007, è preoccupato che possa accadere lo stesso dopo lunedì 4 marzo? O trova che questa campagna elettorale e le condizioni siano differenti da quelle di 5 anni fa? Vedo delle differenze. Prima di tutto, la Corte di Giustizia Internazionale ha chiarito che in questa campagna non si è verificato il tipo di dibattito cui abbiamo assistito nel 2007, che fu molto aggressivo e feroce. Questa volta, anche se le persone si sono mobilitate, le contrapposizioni sono meno forti rispetto al 2007 e così non c'è stata alcuna escalation di violenza. Comunque dobbiamo stare attenti, perché conosciamo le cause che hanno dato origine alle violenze del 2007-2008. Tribalismo, corruzione, possesso della terra, diseguaglianza, disoccupazione, costo della vita. Sono ancora temi caldi e i candidati che oggi li citano come problemi da risolvere sono gli stessi che ieri facevano parte del vecchio regime. La vera domanda è: cosa succederà dopo le elezioni? E soprattutto, cosa succederà nelle regioni periferiche, visto che stiamo trasferendo alcuni compiti da un governo più centralizzato a uno federato? La maggior parte delle elezioni keniote è stata accompagnata in certa misura da violenza, quindi la cosa più importante per evitare disordini è avere elezioni ampiamente accettate dalla maggior parte dei kenyoti. Quale ruolo pensa che possano giocare i mass media, in particolar modo le radio locali? Nel 2007 proprio queste radio hanno giocato un ruolo importante nel gettare benzina sul fuoco e poi le violenze che vi sono scaturite ne sono state il risultato. Che cosa ne pensa? Pensa che le radio stiano giocando un ruolo corretto in questo momento? That is true. But the government has also been very diligent. È corretto. Ma il governo è stato molto diligente tramite il Ministero dell'Informazione e la Commissione delle Comunicazioni del Kenya. Ha fatto un buon lavoro spingendole a prendersi più responsabilità. L'ultima domanda riguarda l'impegno dell'esercito keniota sul fronte del nord, parlo della Somalia. L'intervento in Somalia è stato presente nelle discussioni in questo dibattito elettorale? I candidati parlano di questo intervento o gli affari esteri in generale sono un po' dimenticati dai candidati? Foreign affairs have not been an issue in this campaign. No, gli affari esteri non sono stati un tema centrale di questa campagna. Siamo molto più concentrati sulla Corte di Giustizia Internazionale e sulle stesse votazioni che ormai sono vicine. I due aspetti più importanti del dibattito elettorale rimangono le personalità dei candidati e le divisioni etniche. Pensa che il fattore etnico possa giocare un ruolo significativo? Ho letto che vi sono state molte violenze nel mese scorso nell'area del fiume Tana, per esempio. Sì, tra il gennaio dell'anno scorso e il gennaio di quest'anno 500 kenioti sono stati uccisi, inclusi 100 poliziotti, e più di 120.000 kenioti sono stati sfollati dalle loro case per le violenze. Le violenze vanno avanti, ma questo argomento non è stato approfondito molto, perché l'attenzione dei giornalisti è catturata dalle elezioni, dalla nuova Costituzione e ovviamente dalle decisioni della Corte di Giustizia Internazionale. Questa è una situazione peculiare. Due dei candidati sono imputati, accusati di crimini contro l'umanità. Ma non le suona come un paradosso? Se ho ben capito, le ragioni delle violenze sul Tana River sono molto connesse alle elezioni e non è paradossale che i candidati non parlino proprio di queste violenze? Lo è. Gran parte della campagna elettorale è stato un miraggio. Sono stati evitati i veri temi. Guardiamo per esempio i manifesti. Sono pieni solo di promesse, che lasciano il tempo che trovano. Dove sono invece i temi che toccano davvero i cittadini? Nella vita di tutti i giorni ci sono, ma non trovano spazio nel dibattito. Il che, sì, è un paradosso e una contraddizione. E come state ascoltando, il Kenya è un paese molto molto complesso, difficile da comprendere e ovviamente l'appuntamento elettorale riflette questa complessità. Torniamo al 2007 perché adesso vi faccio sentire la voce di un regista, un documentarista che si chiama Patrick Murraiti, è un keniota residente negli Stati Uniti che ha realizzato un documentario dal titolo Kenya Until Hope is Found che indaga proprio su quelle ferite del 2007. A Patrick, che ho raggiunto telefonicamente a Nairobi, ho chiesto se sta ancora lavorando su questa nuova tornata elettorale. Ascoltiamo. The film that you saw on YouTube is the first version of the documentary and it stands alone as it is. Sì, il film che ha visto su YouTube è la prima fase del documentario che è fatta, ma penso sia incompleto, soprattutto perché è un film sulla violenza post-elettorale di 5 anni fa. Non sarebbe completo senza queste elezioni. Inoltre, durante la mia visita, oltre a promuovere il film più che potevo attraverso interviste ai media, ho trascorso un po' di tempo nello slum di Kibera, raccogliendo più girato dei soggetti del film. Cosa hanno fatto dall'ultima volta che li ho visti? Cosa pensavano delle elezioni alle porte? Includerò tutto questo nella versione finale del film, oltre che i risultati delle elezioni, che spero saranno pacifiche, e come sarà affrontato il dopo elezioni, da qui a pochi giorni. Per cui la versione finale del documentario sarà pronta probabilmente per fine anno o per il prossimo. E adesso, gentili ascoltatori, se avete la possibilità, buttate un occhio sul nostro profilo Facebook, Nessun Luogo è Lontano, perché posteremo anche il link dove potete assaggiare un pezzettino di quel documentario diretto da Patrick Murraiti, che, come avete sentito, è ancora, diciamo, un work in progress. Sempre a Murraiti ho chiesto se, insomma, il senso del documentario sarà diverso, quindi che sta continuando a girare, diverso da quella prima parte che con tanta lucidità indagava le violenze. Lo spero proprio, ma il film si focalizza su traumi psicologici. Anche se le elezioni saranno molto pacifiche, c'è ancora un trauma psicologico irrisolto dovuto alle violenze post-elettorali. Queste scoppiarono perché la gente non si fidava dei risultati delle elezioni e del lavoro dei giudici, e questo ha creato ancora più violenza. Ma penso che molte persone stiano ancora facendo i conti con questo trauma. Uno dei protagonisti del film è Aziz, un'operatrice nei gruppi di pacificazione. Il trauma può trasformare il proprio vicino in un nemico. E allora ascoltiamolo un estratto di questo documentario. Le voci italiane sono quelle di Alessandra De Luca e Diego Balduin che ci hanno aiutato a raccontare, a rendere radiofonico quello che è invece un lavoro che nasce su video. Io sono di qui, di Olympic. Mi chiamo Aziza Sebit. Sono un'operatrice in numerosi programmi di pacificazione. La mia speranza, perché io vengo da qui, dalla baraccopoli di Kibera, la mia speranza, che viene dal cuore, è di vedere tutti quelli che vivono qui vivere insieme come fratelli. It's really hurting me. Quello che mi fa male è che tutti noi che siamo nati qui, che siamo cresciuti qui, beh, siamo proprio noi che ci combattiamo l'un l'altro. Perché se ciascuno di noi prova a guardare chi ci attacca, se proviamo a capire chi ci vuole fare del male, non possiamo non accorgerci che la violenza non viene da fuori. Siamo tutti noi, abitanti di Kibera, che stiamo lottando gli uni contro gli altri. E la mia speranza è che qui, noi oggi, riusciremo a dimostrare agli altri che non vogliamo combatterci più. E così saremo di nuovo uniti. Questo è quello che spero. Nessun luogo è lontano. Quando sono stati annunciati i risultati, prima di avere il tempo di guardarci intorno, ci siamo trovati sotto processo. No, è sbagliato. Non hanno vinto. Abbiamo agito collettivamente e questo ha creato un sacco di problemi nella popolazione. Si saccheggiava e si incendiava continuamente dappertutto. E mentre davano fuoco alle case, cercavano noi Kikuyu. Scappavamo tutti. Impilavano i copertoni delle auto sopra di loro e poi gli davano fuoco. E si scaldavano al fuoco che stava bruciando qualcun altro. È stato terribile. Io mi dicevo, non è possibile. Questo era un altro drammatico estratto da questo documentario Kenya Until Hope is Found di Patrick Moreti. Lunedì si vota in Kenya, ma lo spettro di quelle violenze del 2007 è ancora lì. È vero, l'abbiamo spiegato, la situazione, le condizioni sono diverse e molto ragionevolmente, almeno lunedì, non dovrebbe accadere nulla di grave. Speriamo di non essere smentiti. Ho chiesto a Patrick Moreti, il regista, come sia stato possibile che due vicini di casa, due persone che vivevano uno a fianco all'altro pacificamente, improvvisamente raggiungessero un tale livello di violenza senza alcun preavviso. Non direi che non ci sono stati dei segnali. Per esempio, prima del documentario sul Kenya che hai trovato, ne ho fatto uno sul perdono e la riconciliazione dopo il genocidio in Ruanda. Al resto del mondo sembrava che il genocidio si fosse consumato in una notte. Ma come ho iniziato a capire facendo qualche ricerca, e poi ho sottolineato nel film, questo è un fatto generazionale. Non molti atti di violenza sono stati concepiti come una soluzione finale per eliminare tutti i Tutsi in Ruanda. Questo vale anche per il Kenya. C'è stata violenza prima delle elezioni, persone che sono morte dopo i risultati tra il 2007 e il 2008, ma non è successo in una notte. Penso ci siano stati tanti fattori alla base delle violenze legate alle elezioni: possesso della terra, un alto tasso di disoccupazione giovanile, persone intelligenti, ben istruite e con famiglia a carico, ma senza lavoro. Queste sono persone che i politici possono reclutare facilmente come teppisti. And so to the extent that we do not address unresolved psychological trauma as a society. Nella misura in cui la società non ha affrontato i traumi psicologici irrisolti, allora si ripeterà la spirale della violenza. Anche se non sarà una violenza di natura politica, c'è ancora una buona parte di questo trauma che si manifesta con tutti i sintomi, come alto rischio di alcolismo, violenze domestiche, abuso di stupefacenti, di omicidio, oltre a una vera e propria epidemia di suicidi giovanili. Tutti questi sono i sintomi di un trauma psicologico irrisolto, tuttora esistente, per cui dobbiamo controllarli. Si parla molto di pace e di iniziative per la pace. Ci sono molti soldi spesi per queste iniziative, ma quasi nessuno parla dei traumi psicologici. Se si vuole avere una cultura favorevole alla pace, bisogna affrontare anche questo tema, perché è strettamente connesso al primo. Nella mia vita personale, nella tua, non si può condurre una vita pacifica finché non rimarginiamo le nostre ferite psicologiche a livello individuale. Lo stesso accade a un livello nazionale. As it is on a national level. E questa è l'indagine psicologica e sociologica, se volete, di questo regista keniota di base negli Stati Uniti. Su Facebook, sulla nostra pagina, troverete tutti i link al suo lavoro. L'ultima domanda che abbiamo fatto a Patrick è, in fin dei conti, qual è l'origine di questo trauma, che non sono solo le violenze del 2007? Yeah, I wouldn't say it's ancient in terms of its unique to Kenyan culture. Non direi che è antico in termini di unicità nei confronti della cultura del Kenya. Penso che il leitmotiv principale del Kenya, dell'Africa e di tutto il mondo sia quello dei conflitti psicologici irrisolti, dello stress e dell'ansia ancora non affrontati. Stress e ansia sono i killer numero uno del pianeta. Sono la causa principale di dipendenze, suicidio, omicidio, eccetera. Per esempio, negli USA, dove vivo, il suicidio è la prima causa di morte. Questo è un sintomo dei traumi psicologici irrisolti che continuano. Penso sia una condizione umana, non solo quella dei kenioti, visto che la loro è una cultura al pari delle altre, che non parla dei propri traumi. Forse non hanno il lessico, o un tema di cui non si parla. Forse le persone non hanno l'intelligenza emotiva o l'abilità di gestire lo stress. La conseguenza è che la società è stata traumatizzata e la società ha manifestato quindi i sintomi di cui ti ho parlato prima. Alcolismo, abuso di stupefacenti, suicidio, di cui molte persone non parlano. E ora, gentili ascoltatori, vorrei sottolineare l'importanza del Kenya, di questo paese africano raccontato in questo documentario. 50 milioni di abitanti, 14 milioni di elettori, 40 tribù, 69 lingue differenti, un paese in crescita, un paese cruciale per l'intera area, su cui noi stiamo accendendo i riflettori dell'informazione, ma su cui da tempo altri riflettori si sono puntati. Do intanto il mio buonasera alla professoressa Beatrice Nicolini, docente di storia e istituzioni dell'Africa alla Cattolica di Milano. Professoressa, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Odinga, uno dei candidati nel suo ultimo comizio, ha parlato di land grabbing e ha detto che soltanto superando questa piaga, cioè l'accaparramento di terre da parte di multinazionali o di stati stranieri, potrà far ripartire il Kenya. Ci spiega meglio di chi, quali sono gli appetiti che vengono scatenati in Kenya, da parte di chi? Sì, questo fenomeno che viene definito proprio l'oro verde è un fenomeno che risale ormai a più di 10 anni addietro e coinvolge molti paesi, soprattutto del Medio Oriente, dei paesi del Golfo e asiatici, cioè l'India, e si tratta essenzialmente di acquisire ettari e ettari di terre coltivabili in un continente come quello africano e soprattutto in Africa orientale subsahariana, dove è abbastanza semplice, a causa anche di questa frammentazione politica e di un altissimo tasso di corruzione delle leadership regionali, acquisire per importi estremamente esigui grandi estensioni agricole e anche rivenderle. E quindi è un business enorme, sempre più devastante sul piano delle economie agricole locali, che non sembra riuscire a contenersi, a fermarsi in una qualche maniera, perché la comunità internazionale ancora non ha strumenti per intervenire in questo senso. Sì, e allo stesso tempo lei citava appunto la corruzione, professoressa, è vero che fra l'altro corruzione è stata una delle parole chiave in questa campagna elettorale, lotta ovviamente alla corruzione. A fianco a questa penetrazione, diciamo, di natura economica da parte di alcuni paesi, l'Arabia Saudita, ci diceva l'India, però c'è anche il Qatar, eccetera, questi paesi utilizzano però anche un altro strumento che è un formidabile grimaldello, che è quello religioso. Professoressa. Sì, la penetrazione non è meramente economica, ammesso che di penetrazione si possa parlare, ma è certamente anche politico-religiosa per quanto riguarda alcuni paesi musulmani, e questo implica una serie di progetti che vengono pubblicizzati con costruzioni di scuole e ospedali, ma in realtà includono anche moltissime scuole coraniche e anche scuole di lingua araba, tramite le quali si amplia sempre di più un progetto che è legato all'istruzione, ma anche una penetrazione politico-religiosa in aree dove in Africa non vi è una maggioranza musulmana e quindi si immagina che sia un percorso certamente più ampio per colmare dei vuoti politico-religiosi in alcune aree di interesse anche economico. Perché di fronte a uno Stato che si sta rafforzando, per carità, che ha fatto nel 2010 alcune riforme anche di devolution alle autonomie locali, eccetera, però insomma è distante da, come dire, avere una copertura capillare anche amministrativa sul territorio. Il problema dell'Africa, di alcuni Stati africani, è proprio questo, e quindi insomma è facile per altri soggetti, altri attori infilarsi in quelle che sono piccole pieghe o piccole o grandi mancanze da parte appunto dello Stato centrale. Grazie mille, professoressa Nicolini, docente alla Cattolica di Milano, esperta di storia e istituzioni dell'Africa. Buona serata e buon lavoro. Grazie a voi. Allora, lunedì 4 marzo si vota in Kenya, avete sentito, 14 milioni di elettori, 8 sono i candidati, però insomma fondamentalmente a giocarsela sono due, Odinga e Kenyatta. Lo spettro delle violenze è lì che aleggia, però tutti si augurano, anche grazie al dispiegamento di forze di polizia e alla militarizzazione vera e propria di alcune zone, il Tana River, si spera insomma che tutto proceda per il meglio. Che cosa c'è in ballo? Beh, c'è in ballo il futuro, e non solo del Kenya, nella sua continuo processo di evoluzione, di crescita anche economica. Era al 7% la crescita del PIL l'anno scorso, adesso si è attestata al 4%, complice la crisi, però insomma rispetto a certi risultati di alcuni paesi europei c'è sempre da stare a sognare. Questo per chi dice insomma l'Africa è un paese, un continente arretrato, altro che, l'Africa sta crescendo. Fra l'altro vi segnalo sull'Economist di questa settimana uno speciale che racconta proprio quanto l'Africa stia crescendo, non solo a livello di mercato interno ma anche di società e culture. Nessun luogo è lontano. Lunedì 4 marzo, 14 milioni di kenioti si recheranno alle urne per eleggere il presidente, ma sono anche elezioni legislative, e decideranno che piega, che direzione deve prendere il loro paese, sulla lotta alla corruzione per esempio, sulla crescita economica, tutti i temi che i candidati hanno più o meno toccato. Avete sentito, uno dei temi assolutamente assenti dalla campagna elettorale, la politica estera, anche lì come da noi in realtà. E quindi il 4 marzo ci sarà appunto il primo turno. E allora andiamo immediatamente a Nairobi per capire lì nella capitale che aria tira, e lo facciamo grazie a Jacopo Rovarini, che è capo progetto di Amici del Mondo. Su Facebook trovate anche il link a questa ONG. Rovarini ha studiato relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, quindi gioca un po' in casa dopo la professoressa Nicolini, si è specializzato in politiche per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Rovarini, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a voi. Allora, naturalmente c'è un po' di ritardo perché stiamo chiamando un altro continente, quindi i nostri ascoltatori ci scuseranno. La prima domanda, Jacopo Rovarini, è: che aria tira a Nairobi in questa pre-vigilia elettorale? Guarda, si respira un po' di nervosismo, a dire la verità, o un po' di eccitazione, dipende dai punti di vista. Ogni kenyota ovviamente spera nella vittoria del proprio candidato, e da qualche giorno in ogni momento non si parla praticamente d'altro. Ed è tangibile la volontà di competere dei vari candidati, tanto che notavo qualche giorno fa un cartellone pubblicitario che riportava un poster elettorale di un candidato e dopo un paio di giorni il candidato avversario proveniente da un altro partito ha noleggiato un pallone aerostatico, l'ha foderato con i propri poster, l'ha piazzato esattamente di fronte al cartellone del precedente. Quindi per far vedere quanto veramente la competizione sia forte e vissuta. Competizione forte, vissuta, e ho visto un po' di immagini anche degli ultimi comizi, estremamente colorata nella più pura tradizione keniota. Ovviamente si spera che quello che abbiamo raccontato fino adesso, cioè i drammatici eventi del 2007, non si ripetano. Mi sembra di capire, Jacopo, che insomma tira un'aria abbastanza tranquilla. Però vorrei con te inquadrare un po' meglio l'importanza del Kenya, soprattutto in quello scacchiere regionale, cioè nell'Africa dell'Est, perché si parla sempre del Kenya come meta turistica, se ne parla quando succede qualche drammatico evento ai turisti italiani a Malindi, ma il Kenya è tanto, molto altro, soprattutto appunto nello scacchiere regionale. Individuiamo, grazie a te, quelli che sono, diciamo, i tre grossi motivi, tre grandi fronti su cui il Kenya si deve confrontare. Hai perfettamente ragione, l'importanza di questo paese a livello regionale è cruciale. Partirei con il primo fronte che tu hai già menzionato all'inizio del programma, che è la Somalia. Proprio tu ricordavi come il Kenya sia intervenuto militarmente nel sud della Somalia nell'ottobre del 2011 con l'obiettivo di eliminare la minaccia costituita dagli Al-Shabaab che dominavano la Somalia meridionale. Ovviamente un'instabilità interna al Kenya avrebbe delle ricadute importanti innanzitutto sull'iniziativa militare e nel lungo periodo anche sul processo di stabilizzazione della Somalia, quindi instabilità in Kenya significherebbe maggiore instabilità in Somalia. Certo. Secondo fronte che possiamo identificare è il Sud Sudan, altro paese confinante con il Kenya. Il Sud Sudan, come molti di voi sanno, ha dichiarato l'indipendenza politica dal Sudan qualche tempo fa attraverso un referendum e ora sta tentando in tutti i modi di raggiungere quell'indipendenza economica che renderebbe veramente concreta la propria autonomia, e il Kenya gioca un ruolo cruciale in questo. Basti citare il progetto di un collegamento infrastrutturale tra la costa del Kenya e la capitale Juba, la capitale del Sud Sudan, questo progetto che è probabilmente il progetto infrastrutturale più dispendioso e significativo di tutto il continente, che mira a collegare la costa del Kenya, in particolare il porto di Lamu, con la capitale del Sud Sudan, Juba, costruendo un oleodotto, una ferrovia, la fibra ottica e l'autostrada. Quindi questo dà l'idea di quanto diventerebbe dipendente dalla situazione o dalla stabilità del Kenya il futuro e il futuro sviluppo del Sud Sudan. Sì, tra l'altro questa è la grande mossa, ti interrompo Jacopo per spiegare meglio, che è la grande mossa di Juba, di Salva Kiir, del Sud Sudan, per emanciparsi, no, da quelle che sono le raffinerie che sono situate al nord. Siamo quasi in chiusura, quindi Jacopo ti prego massima sintesi, abbiamo veramente 2 minuti. Ok. L'ultimo punto è l'ultimo fronte, diciamo, è la comunità dell'Africa orientale, questo organismo che promuove l'integrazione a livello regionale, dove il Kenya rappresenta il paese forse motore, data la sua importanza finanziaria, economica, logistica per tutti i paesi confinanti. Questi sono esattamente i tre fronti. Un'instabilità post-elettorale in Kenya influirebbe su tutti questi fronti che abbiamo menzionato. Chiaramente. Vi sono stati vari sondaggi sulla cui attendibilità, insomma, è tutto da, potremmo sindacare per ore. Chi è il dato per, insomma, che come vincitore più probabile dal tuo osservatorio lì a Nairobi? Guarda, al momento l'incertezza è tale che non saprei come esprimermi. Quello che molti degli analisti al momento si aspettano è una risposta non chiara dopo il primo turno e quindi la necessità di avere un ballottaggio nel giro di un mese. Quindi le analisi sono molto caute al momento. E lì, insomma, bisognerà stare attenti a vedere cosa accadrà a un mese, quando, insomma, gli animi saranno ancora più accesi, perché alla fine poi sarà lì tra un mese che si deciderà se si va al ballottaggio, chi sarà il presidente. Grazie allora a Jacopo Rovarini per essere stato con noi in diretta da Nairobi. Buona serata, buon lavoro a te. Grazie a voi. Fibra ottica, ferrovie, l'oleodotto, e, insomma, chi dice l'Africa, quel continente lontano. Io vi ricordo, fra l'altro, che è stato lanciato un appello agli elettori per andare a votare e ritirare la scheda elettorale con gli smartphone, e questo accadeva in Kenya nelle scorse ore, ecco, a dispetto di chi ancora considera questo continente una realtà di serie B. 19:55 minuti, tempo dei titoli di coda. E quindi non mi resta che ringraziare Guido Scotti e Valentina Magri in redazione, Pietro Lacorte che ha dato musica e ritmo a questa puntata, voi gentili ascoltatori per essere stati con noi anche questa sera. Io vi do appuntamento a sabato prossimo ore 19:15, ricordandovi che nessun luogo è lontano.